L'approfondimento di oggi di Festivals Backpack è dedicato non proprio a un festival, più a una rassegna, ma comunque un evento che si terrà qua a Bologna e che ci facciamo raccontare direttamente dalla voce del suo organizzatore. È un evento che inizierà domani, quindi insomma vogliamo proprio invitarvi a cogliere questa occasione al volo. Intanto, benvenuto. Bene, salve. Come stai? Bene, bene, molto contento e nello stesso tempo eccitato per quello che succederà domani. Perché domani, insomma, grazie alla tua organizzazione, alla tua idea, inizierà, ricordiamo che stiamo parlando con Pasquale Pezzillo, perché noi stavamo parlando da prima, quindi ho saltato la presentazione, ma insomma Pasquale Pezzillo è qui con noi perché ci racconterà Astrale, che sta per iniziare. A me ha colpito moltissimo la descrizione dell'evento e anche la motivazione con la quale è partita quest'idea, quindi ti chiederei, Pasquale, se hai voglia di raccontarcela. Assolutamente sì, intanto vi ringrazio davvero per questo spazio che per me è prezioso. È piccolissima premessa, davvero cedere crismi e la edizione che vi è dietro un festival seriale, lo definirei così, è chiaramente da condividere con tutti noi. Okay, detto questo, però ci metti la voce e la faccia per oggi, cosa sì, ne dici? Sì, volentieri, e la responsabilità che è sempre dietro l'angolo, anche perché Astrale dedica la sua attenzione e quindi offre lo spazio di Astrale, che è uno spazio sintomatico, ad artisti la cui bellezza è spesso nascosta negli anfratti più bui, per cui il rischio è sempre dietro l'angolo, però c'è una grande fiducia che poi è il nucleo fondante di tutta questa avventura affascinata. La fiducia è che si ritorni davvero a riparlare di musica, si ritorni davvero a riposizionare la musica al centro, e per farlo i club, che sono questi hub, questi contenitori spesso astratti, possono in qualche modo ritornare a costituire una propria identità, cercando ad educare con l'ascoltatore, ad aprirsi anche a delle dimensioni che spesso non vengono offerte nei canali tradizionali. Infatti la sfida è duplice, tocca due aspetti essenziali. Il primo è quello di creare ancora una volta, se ve ne fosse bisogno, una identità comunitaria di inclusione e integrazione in città, e in seconda istanza di aprirsi chiaramente dal locale al globale. Quando dico globale non intendo chiaramente i globalismi che dobbiamo combattere, ma la dimensione internazionale di una città che non è soltanto rumore di mandibole. Per quanto riguarda il nome della rassegna, come mai è stato scelto Astrale? Astrale perché siamo trovati all'interno di questo osservatorio con un telescopio che cerca di puntare il proprio obiettivo in alto, più lontano possibile. Ci siamo resi conto che anche quegli astri così lontani, quelle piccole stelle che non luccicano così tanto, possono in qualche modo ancora essere narrative, ecco, quindi sviscerare da quella dimensione lontana una apprensione sensibile dell'umano che deve sempre scoprire qualcosa che ancora non vede. Per cui abbiamo pensato, ok, eppure si muove, no? Qualcosa si muove, tutto si muove, gli altri spesso non li corgiamo, seppur basterebbe volgere lo sguardo verso l'alto. Allora andiamoli a scoprire, andiamoli ad individuare, perché facevamo una riflessione sul fatto che quelli della nostra generazione sono gli ultimi che probabilmente hanno vissuto una vita pre-digitale. Lo spazio è ritornato anche in molti eventi e molti festival che abbiamo portato qui in radio, insomma che abbiamo raccontato qui in radio attraverso le interviste nell'ultimo anno, quindi si vede che è un tema che comunque è un po' trasversale. Così, sì, sì, è così, perché diciamo che il rapporto con la femminilità è lì, è dietro l'angolo, è una trasformazione, una trasposizione dell'essere. Nello stesso tempo questa trasposizione non è soltanto figurativa, ma è esistenziale, e sentiamo un po' questo nosos, questo amore come nostalgia che si sta un po' deflagrando, come se il nostro mondo non ci fosse più, e sentiamo quasi il richiamo di un altro mondo che ci dice ok, si parte, si va da qualche altra parte, ma noi romantici vogliamo restare qui, e il club è per antonomasia il luogo in cui nascono gli amori, nascono le seppur deplorevoli commistioni di confronto con lo status quo, quindi la rottura del sistema, nascono le rivoluzioni, se vogliamo, nascono le band, nascono le comunità, ecco. Beh, direi che a questo punto ci stiamo proprio avvicinando un po' al cuore di questa, diciamo, manifestazione di Astrale, parlando anche di chi salirà sul palco. Prima però ti chiederei di fare un piccolo assaggio, quindi scegliere una canzone che hai voglia di farci ascoltare per prepararci un po' alla programmazione appunto di Astrale. Se posso, uno degli artisti sì, che mi ha folgorato, è difficilissima la sua pronuncia, Steve Aushin, tra l'altro suonerà domani, e una delle tracce che mi piace di più è Where All Is Fled. Allora l'ascoltiamo e torniamo da te. Per quanto riguarda gli artisti che saliranno sul palco, quello che c'è da ricordare è che è un po' un appuntamento mensile, quindi avremo la possibilità, seguendo Astrale, di avere, diciamo, sul calendario un appuntamento ogni mese per riuscire a scoprire musica nuova. Ti chiederei qual è la programmazione che possiamo svelare finora. È tutto in itinere, in procinto di definirsi. Speriamo che questo festival seriale infrasettimanale possa diventare un appuntamento fisso nei prossimi tempi, nei prossimi anni. Molti artisti sono in pencil, come si suol dire. Domani Steve Aushin e Niklas Ashburg inaugurano, genere ambient elettronico molto sinuoso, con aperture spaziali, proprio per restare nel tema. Scuola tedesca, sicuramente una delle cifre più alte di tutto il festival, perché è una proposta davvero eccellente. E siamo ad ottobre, a novembre troviamo Douglas Dare, che abbiamo già ospitato per uno dei festival che è stato accurato al Teatro Comunale Europa Vox qualche anno fa, 2019 credo, all'interno della pancia del teatro. Ray States continua la sua carriera, credo sia il quarto album, un artista eclettico, elettronico, con una voce sfadente, pianoforte acustico, tanta contaminazione. In apertura un'artista che pochissimi conoscono, si chiama Stegonaute, è un'artista francese che lavora con i nastri, super analogico, sperimenta il suono, ricerca il suono nella natura, sulle rive dei fiumi. Il 4 di dicembre invece ci sono i Julie Sirecut, per fortuna ritornano con uno show speciale all'interno del quale ci saranno delle primizie di novità, ecco, che non svegliamo. E in apertura Sugar for the Pill, il titolo che hanno scelto, il nome che hanno scelto per la loro band è un titolo di una canzone degli Slow Dive, quindi tutto questo fa intendere quali siano le direzioni sonore. E l'11 di dicembre The Lemon Tree. Questi quindi sono gli appuntamenti fino alla fine dell'anno. Poi ricordiamo che appunto questo appuntamento sarà un appuntamento mensile, speriamo, e infrasettimanale. Infatti, come dicevi, l'appuntamento cade insomma di mercoledì, così per dare un attimo una svolta alla settimana. Direi che a questo punto abbiamo detto le cose principali. Ricordiamo che la location è l'Estragon, e anche se non sbaglio che oltre ai concerti ci sarà anche un altro spazio, giusto? Sì, la sorpresa, che probabilmente per Riavventori di Astrale non sarà più tale se non nei contenuti che variano, è proprio quella di trovare un Estragon trasformato, ma in questo caso proviamo a costruire delle aree all'interno dello stesso club, per cui c'è una disgiunzione netta tra due avamposti particolari, sala dove c'è il concerto con delle sedie, e poi un'area invece dedicata a mostre fotografiche, proiezioni piuttosto che installazioni di opere d'arte. E all'interno di quest'area, dove c'è una taproom, quindi si può anche bere, sedersi in una dimensione quasi lounge, c'è un DJ resident per tutte le serate, si chiama Blue, che selezionerà ad hoc musiche per l'occasione. Allora, se sei d'accordo, io ti chiederei The Lemon Twix come ultima canzone, sei d'accordo? O hai in mente qualcos'altro? No, va bene. Avrei detto giusto, no? Immagino che siano sufficientemente conosciuti, ma è bello ribadirlo. Perfetto, allora io ti ringrazio tantissimo, Pasquale, per essere stato qui con noi, per averci raccontato Astrale. Ricordiamo che poi sui canali ovviamente di Estragon ci sono tutte le indicazioni necessarie, anche sul sito radiocittafugico.it e festivalsbackpack.it inseriremo un articolo con tutte le informazioni e cercheremo assolutamente di rimanere aggiornati anche sulle prossime date. Guarda, ti ringrazio e rubo un ultimo secondo per dire una cosa non solo funzionale, ma credo anche poeticamente necessaria. Il festival permette l'ingresso gratuito ai giovani fino ai 23 anni compiuti, proprio perché ci rendiamo conto che questa è una città in difficoltà in questo momento, e il suo volto è sconfortato da certe scelte anche politiche, per cui i giovani sono in estrema difficoltà, affitti incredibili, costo della vita altissimo. E crediamo che la musica, per quel poco che possa fare, debba essere al loro fianco, e quindi ecco, quello che possiamo fare è accoglierli, sperando che Astrale sia per loro anche un modo per ritrovarsi e ritrovare la forza. Benissimo, mi sembra una cosa bellissima. Grazie mille, Pasquale. Grazie di cuore, grazie infinite.